Siamo all'appuntamento con il cinema su Radio Onda Rossa dal 1977, senza padrini, senza padroni, la radio di chi se la sente, la voce dei senza voce. Potete contribuire a farla vivere, ad esempio sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale 6180 4001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma. Un altro modo è andare sul sito internet della radio, ondarossa.info. Sulla home page c'è l'opzione sostieni per la modalità PayPal. Dicevo, siamo all'appuntamento con il cinema. Visionari il giovedì dalle 14 alle 15 per parlare appunto dei film e dei documentari, ma non solo. Per saperne di più, la scaletta di oggi la trovate sul sito internet della radio, la voce trasmissioni Visionari, sia sulla pagina Facebook, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Oggi i collegamenti previsti sono con Alessandro Rossetto, regista del film Piccola Patria, in uscita in sala oggi giovedì 10 aprile, Paolo Pensa di Fox Searchlight Pictures sulla distribuzione di The Grand Budapest Hotel, in uscita sempre oggi in sala giovedì 10 aprile, poi Livia Parisi, regista del documentario Casa Nostra, che sarà presentato al Bifest oggi e domani, il regista Filippo Vendemmiati sul progetto del documentario Meno Male Lunedì, il regista Carlo Tartivita sul progetto del documentario Sotterranea, il regista Carlo De Domenico sul progetto del documentario Remedios, poi Chiaramanni, presidente dell'associazione ACMA, sul sesto festival del documentario d'Abruzzo, che è in svolgimento a Pescara da marzo a giugno, e Francesca Antonini del 18° Umbria Film Festival a Montone in provincia di Perugia dal 9 al 13 luglio, che è in crowdfunding. E poi troverete sulla scaletta le uscite in sala di giovedì, oggi giovedì 10 aprile, i suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, il link per ascoltare la puntata precedente ma anche quelle del 2013 e del 2014. Livia Parisi, regista del documentario Casa Nostra, che sarà presentato oggi e domani al Bari International Film Festival. Livia, ben ritrovata. Sì, ciao Federico, ben ritrovato, un saluto a chi è in ascolto. Allora, ne parlavamo poco tempo fa di questo tuo lavoro, che si occupa di due occupazioni del Movimento per il diritto all'abitare qui a Roma, che tra l'altro la cronaca dice che sono state protagoniste dello sgombero alcune settimane fa, che poi è rientrato, insomma sono le famiglie sono rientrate nelle rispettive case occupate. Giusto, Olivia? Dunque sì, intitola Casa Nostra e diciamo vuole riportare in generale l'attenzione sul problema abitativo, che non chiamiamo emergenza perché l'emergenza dovrebbe essere una cosa improvvisa, mentre invece in Italia c'è un vero e proprio problema strutturato, no? E poi sarebbe interessante capire, certo, è nell'interesse di chi che rimane tale, no? Che è così dagli anni 60 in Italia. Il documentario, come giustamente ricordavi, parte da due esperimenti di autorecupero o autoricostruzione, ovvero di occupazioni sicuramente abusive di spazi inutilizzati che vengono in effetti trasformati letteralmente in appartamenti, ma appartamenti caratterizzati da una grande qualità di vita, diciamo, in qualche modo, quantomeno dignità, ecco. Non certamente si parla di squatter, no? Ma di veri e propri appartamenti, ognuno con un certo numero di metri quadri, possibilmente col bagno, insomma, che presentano appunto alcuni requisiti. Queste due occupazioni, una è quella di Via della Cace, l'altra è quella della Erz in Via Tuscolana, sono state proprio tra le protagoniste dei famosi sgomberi, famosi per chi sta a Roma, ovviamente difficile non averne sentito parlare perché tutti i giornali erano pieni, degli sgomberi dello scorso 19 marzo, che hanno preso di mira per appunto questi due edifici e l'Angelo Mai, il centro sociale, diciamo, artistico e culturale Angelo Mai. A differenza di quanto dicevi, è vero che le persone sono state momentaneamente ricollocate all'interno delle loro abitazioni, ma non perché il problema sia rientrato o perché sia stato tolto il sequestro agli immobili, perché gli immobili sono stati sequestrati perché pende sul Comitato Popolare di Lotta per la Casa un'indagine della magistratura con accuse pesantissime. La principale è associazione a delinquere, come fanno molti dei quali seguono i movimenti di lotta sia contro il precariato che contro la lotta alla casa, insomma adesso diciamo è la, il reato principe sostanzialmente, in questo caso con una serie di aggravanti. Si è trattato di una semplice sospensione del del sequestro. Si è trattato, e questo va a riconfermare il fatto che si tratta veramente di un problema molto grave, quello abitativo a Roma, si è trattato del fatto che non sapevano dove mettere sostanzialmente le famiglie, non avevano disponibilità per mettere le famiglie, quindi momentaneamente hanno reso utilizzabili questi edifici che pure restano sotto sequestro. Questo per quanto riguarda le scuole occupate. Per quanto riguarda invece l'Angelo Mai, rimane sotto sequestro, tutto chiuso e sigillato, quindi tutte le iniziative sono saltate, e già da diverse settimane, insomma, da quando è successo, diciamo dal 19 marzo, ci sono state diverse iniziative, soprattutto nel fine settimana, la scorsa domenica in particolare, sono state oltre 9.000 persone al Parco di San Sebastiano proprio per chiedere che vengano tolti i sigilli e venga restituito al pubblico questo luogo, che è senz'altro un luogo storico per molti romani, insomma. Allora, a questo punto partiamo dal progetto. Da dove parte tutto, Olivia? Parte tutto da un reportage televisivo, in realtà, perché io sono videomaker ma soprattutto giornalista, insomma, quindi mi sono trovata per motivi giornalistici, mi sono occupata spesso di sociale nella vita, quindi mi sono trovata a occuparmi del tema di questo problema abitativo, disagio abitativo o sedicente emergenza abitativa, e quindi ho visitato questa scuola occupata a Centocelle, una scuola che è abbastanza nota nella realtà romana, proprio perché insomma si distingueva da altre situazioni, da altri movimenti. Il movimento di lotta per la casa comunque è molto composito, è fatto di varie realtà, alcune delle quali anche tra l'altro in conflitto fra loro, quindi in questo caso, ecco, la cosa che mi aveva colpito era proprio la sensazione di entrare in una sorta di occupazione a 5 stelle, no? Una sorta di best practice, proprio per la qualità e la cura con cui venivano anche arredate queste case, che poi insomma erano case, insomma, di fatto abusive, occupate, però avevano quadri ai muri, proprio come se volessero in qualche modo dimenticare poi la natura e l'origine del loro essere lì. Sostanzialmente. Da lì ho deciso di approfondire e di seguirli, perché l'ho incontrati proprio in un momento particolare, questo gruppo, questo comitato, in cui appunto, come dire, principali protagonisti sono adesso tutti sotto inchiesta, di fatto, e mi riferisco, insomma, per chi la conosce, per chi nel mondo romano la conosce, di Pina Vitale, che era anche la gestrice, per l'appunto, della famosa osteria di Pino dell'Angelo Mai, l'osteria di Pina dell'Angelo Mai. Quindi decido di seguirli perché loro proprio in quel momento, poiché al loro sportello ricevevano moltissime domande di essere ospitati in questa scuola occupata, non avevano più spazio, quindi hanno finito tutti gli spazi disponibili, quindi hanno deciso di procedere con una nuova occupazione. Quindi hanno iniziato un percorso prima di manifestazioni, quindi li ho seguiti prima a dormire con le tende per strada davanti alla prefettura di Roma, poi in una occupazione simbolica della Basilica di Santa Maria Maggiore, hanno passato lì una notte, fino al momento che è stato proprio quello in cui si è partiti con i materassi, le reti, le bombole e tutto per la nuova destinazione, quindi questa via Tuscolana 1113, insomma questa scuola, ex istituto tecnico ERS, abbandonato da 3 anni e lasciato nel più totale degrado. E quindi ho cominciato a seguire tutto quest'iter che è passato attraverso varie fasi, sicuramente prima le pulizie, ecco, sono rimasta molto impressionata dal fatto che hanno passato la notte a pulire appena arrivati, no? E la cosa che mi raccontavano era proprio che volevano renderlo bello e vivibile. La prima cosa che fanno, dicevano, la prima cosa che facciamo quando arriviamo in un posto che occupiamo è stato quello di pulirlo, proprio perché vogliamo provare a sentirlo nostro, e poi soprattutto vogliamo che anche nel caso in cui ci dovessero sgomberare, però possano pensare che noi questo luogo l'abbiamo migliorato e non peggiorato, no? E questa mi sembrava una cosa molto bella. Ho vissuto con loro veramente tutti i primi attimi, i primi momenti, i primi giorni, anche la prima settimana di paura, di sgombro, di picchetti, e poi piano piano anche la fase in cui si è invece cominciati, ci si è cominciati a rilassare sostanzialmente, i primi festeggiamenti, le prime ristrutturazioni vere e proprie che hanno consistito in una serie di lavori proprio strutturali sull'edificio, tra cui anche proprio un nuovo impianto fognario per rendere poi quello che è l'impianto fognario di una scuola adatto a invece a quello abitativo, ad uso abitativo. E quindi ecco, ho seguito i lavori da un lato, da un punto di vista tecnico, ma allo stesso tempo anche un po' la vita collettiva, che non è per niente facile, perché comunque ovviamente diciamo, far parte di un movimento di lotta per la casa significa anche fare una scelta politica, di lotta politica, in cui si prevede, si richiede comunque una certa attitudine sicuramente a essere presenti in prima linea, e quindi anche questo è stato raccontato e filmato, in particolare con le manifestazioni che il comitato faceva in occasione del 25 aprile, ad esempio, che viene ricordato tutti gli anni con una processione per Ciaggiocelle fino a un monumento che ricorda proprio i partigiani caduti, una deposizione di fiori. Diciamo, ecco, ho cercato di proseguire portando avanti un po' sia l'aspetto proprio di trasformazione pratica di un edificio, però anche un po' quello che significa la vita in comunità, che significa anche mettersi lì a fare i lavori, farli anche quando non ne hai voglia, litigare parecchio, perché si litiga molto in un condominio, figuriamoci in un contesto come quello in cui comunque poi alla fine si ritrovano persone che in un modo o in un altro vengono da un disagio comunque economico, che molto spesso è anche un disagio sociale, certo, in una situazione di tensione costante, tra l'altro, insomma, abbastanza di tensione costante fino a che poi magari ricevi la residenza, e questa è una bella cosa, e pensi, allora, visto che ho la residenza sto a posto, la residenza è il comune ufficiale, invece no, non sei a posto neanche con la residenza, perché appunto le persone che sono state sgomberate erano regolarmente residenti. La cosa interessante è che nel corso di questi due anni in cui insomma mi sono detta di mese in mese, vabbè, basta, è finito questo documentario, poi in realtà non finiva mai, perché nel frattempo succedevano cose, tra cui una molto interessante, perché sono stati invitati a fare una relazione presso il Parlamento Europeo, non davanti ai deputati, ma comunque nell'ambito di una assemblea di cittadini, un'assemblea pubblica però presso il Parlamento Europeo a Bruxelles, per presentare proprio, diciamo, questo modello di autorecupero edilizio, che è un modo per far fronte a un problema, ovviamente. Vorremmo tutti che questo problema non ci fosse. Il tema è come cercare anche, se fosse possibile, di passare dall'occupazione alla assegnazione, no? E quindi attraverso dei veri e propri bandi, cosa di cui parlavo. Tra l'altro politicamente si è discusso, è stato approvato anche in regione un percorso del genere, però poi di fatto ancora non sono stati assegnati, insomma, questi edifici da recuperare. Sì. Olivia, una domanda in conclusione. Hai parlato già abbastanza facendo un quadro, però volevo chiederti rispetto avendo tu seguito tutta questa vicenda per parecchio tempo, quali sono gli aspetti che più ti hanno colpito in positivo rispetto all'organizzazione e anche alla gestione della questione a casa, dei movimenti per il diritto all'abitare? I movimenti per il diritto all'abitare in realtà sono tante realtà e molto diverse, un po' come dire, come è la politica italiana, è fatta di partiti, ogni partito poi ha le sue caratteristiche, le sue proprie persone, e realizza le cose in modo diverso. Sicuramente la cosa che trovo molto molto bella è, diciamo, la possibilità intanto di formare una sorta di, io non parlo in termini retrogradi di lotta di classe, io intendo dire proprio veramente di unitarietà di fronte rispetto a un problema che riguarda italiani e stranieri. Molto spesso queste occupazioni sono proprio terre di incontro multietniche, sono poi anche dei luoghi con molti molti bambini in genere, no? E dove anche questi bambini crescono in una dimensione che sicuramente è anche molto stressante, purtroppo, però diciamo, questo non dipende da loro e non dipende dai genitori, perché qualsiasi genitore vorrebbe dare una casa ai propri bambini. Allora questi bambini li trovi che da un lato ragazzi che crescono diciamo avendo una dimestichezza con termini quasi come sfratto, picchietto, che fa un po' impressione. D'altro lato però sono dei bambini che hanno una grandissima capacità di vivere insieme, di sentire la collettività, sono quasi non hanno nemmeno il senso di che cosa significhi avere una porta chiusa, no? O stare in un condominio, perché poi si vive in una dimensione sociale, di rete sociale, quindi comunque di condivisione anche di quelli che possono essere i problemi. Sì, e quindi anche i bambini crescono insieme poi di fatto, ad esempio. Sì. Io trovo che questa sia una cosa che è in comune tra le varie situazioni e le varie realtà occupative. Poi ecco, il problema è che secondo me a monte è che bisogna occuparsi della casa, e fino adesso, diciamo, nonostante i vari piani casa che sono stati fatti, nonostante tutta l'incentivazione sul social housing, le persone che non hanno reddito, e non hanno reddito non perché sono lavativi, ma perché magari in seguito a una separazione, in seguito alla perdita del lavoro, a una cartella di Equitalia più pesante, si trovano in effetti a non poter gestire un affitto, e tutti noi sappiamo che cosa significa pagare un affitto che a volte arriva fino al 60-70% del guadagno, insomma, quando poi si ha a carico anche una famiglia. Insomma, il tema è come dire, finché non c'è, non viene riconosciuto dalla politica il diritto ad avere un tetto, che non significa avere una casa bellissima, ma avere un tetto sulla testa, no? Sotto il quale far crescere i propri figli, non ci si può poi troppo lamentare dell'aggressività e della violenza. E io faccio riferimento agli scontri che ci sono stati l'altro giorno a Roma, e spero quelli che non ci saranno domani, perché domani c'è un altro appuntamento importante, un'altra manifestazione importante. Però ecco, trovo che si stia anche da un punto di vista politico calcando molto la mano su la violenza di questi movimenti, e non sulla violenza dalla quale delle cause che costringono. Certo. Senti Livia, in chiusura ricordiamo intanto che sarà proiettato oggi e domani al Bari International Film Festival, e esatto. ci sono riferimenti online per chi volesse saperne di più sul tuo lavoro? Sì, il sito internet casanostradoc.wordpress.com, e poi la pagina Facebook Casa Nostra, proprio esattamente così. Livia, io ti abbraccio, a risentirci presto. A te, a presto. Ciao. Buon proseguimento. Grazie. Livia Parisi, regista del documentario Casa Nostra. Con noi Carlo De Domenico per parlarci del progetto di documentario Remedios. Carlo, ben ritrovato. Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Tra l'altro in parte in continuità, perché abbiamo parlato prima con Livia Parisi, che ha appena realizzato un documentario su due occupazioni a scopo abitativo qui a Roma, e di questo avevamo parlato con te per un tuo lavoro qualche anno fa, che si riferiva proprio al movimento di lotta per il diritto alla casa. Questa volta però il progetto è diverso. Allora parlacene un po', Carlo. Sì, ci spostiamo dall'altra parte dell'oceano, in realtà proprio in occasione del 24 marzo, che è una data importante per l'Argentina, ho deciso di lanciare questo progetto di documentario che vuole un po' aggiornare anche lo stato dell'arte su le vicende che hanno visto appunto l'Argentina sotto la dittatura, ma declinarla anche in maniera un po' più attuale, perché la realtà odierna fortunatamente ci dà anche delle buone notizie, ossia che molti dei responsabili del processo di riorganizzazione nazionale, così come è stata chiamata la dittatura argentina, l'ultima dittatura civico-militare, adesso appunto molti di quei responsabili sono stati condannati, oppure sono sotto processo, e più in generale c'è stato in questi anni un enorme lavoro sul versante dei diritti umani. Quindi voglio anche un po' portare gli elementi di novità che rispetto magari a lavori fatti appunto nel passato, dove questo elemento ancora non era, ahimè, presente, invece oggi possiamo parlare anche di questo, quindi è diciamo focalizzare anche un po' sull'attualità argentina. Tra l'altro la dittatura argentina coinvolse anche parecchi militanti antifascisti italiani o comunque discendenti di italiani. Sì, comunque impegnati contro la dittatura militare vi fu un fenomeno molto ampio che secondo me in maniera errata molti continuano a chiamare guerriglia. Secondo me la guerriglia contro la dittatura argentina dovrebbe essere chiamata in maniera diversa, e quelli che vengono ancora oggi definiti guerriglieri potrebbero tranquillamente essere definiti in realtà partigiani. E ancora la società argentina sconta un forte contrasto politico su quelle vicende, su quegli anni, e in Italia credo che non vi sia un'effettiva attenzione sulle vicende, sia quelle passate sia anche più recente. Questo si può notare anche, ti faccio un esempio, è uscito quest'anno in Italia un film molto bello che si chiama Infanzia Clandestina. Come no, certo. È stato, anche voi ne avete parlato, è stata fatta una proiezione anche recentemente, però in sala questo film è uscito a fine agosto, ovviamente con grandi difficoltà per la visibilità di un film del genere, che invece era fatto anche tecnicamente molto bene, oltre che appunto a porre l'attenzione sui fenomeni della lotta armata in Argentina. E l'Italia è particolarmente coinvolta perché ha accolto migliaia di esuli della dittatura. In fondo, cioè, anche io mi sono interessato da alcuni anni a questo argomento perché ho avuto la possibilità di conoscere direttamente amici, compagni che sono stati toccati appunto dalla repressione dei militari, alcuni in maniera più soft, che sono dovuti soltanto scappare in fretta e furia dal paese, o altri che hanno anche perso i genitori, quindi cioè, l'Italia dovrebbe, a mio avviso, anche per le responsabilità che ha avuto nel sostenere la dittatura, avere particolarmente a cuore come si sviluppano adesso anche i processi, la realtà appunto dei fenomeni appunto che vanno a processo adesso. E per tutti i paesi che hanno vissuto un periodo oscuro e buio e violento e repressivo nel corso del tempo, uno dei punti più interessanti è sicuramente quello dei conti che si fanno col proprio passato. E cosa è successo e cosa sta succedendo in Argentina? In questo momento diciamo che dal ritorno della democrazia, io mi sono trovato a Buenos Aires, sono stato recentemente per 2 mesi ed ero lì il giorno appunto in cui ricorrevano i 30 anni del ritorno alla democrazia. L'Argentina non ha mai vissuto fino a oggi un periodo così largo con istituzioni democratiche, quindi era particolarmente importante, volevo essere lì, sono stato in Plaza de Mayo a un grande atto, come viene chiamato lì, proprio a una grande festa per la democrazia, un passaggio fondamentale perché sono state anche cancellate recentemente, cioè più o meno recentemente, nel senso nel 2003, sono state dichiarate nulle le leggi di amnistia che erano state varate da Alfonsin e da Menem, e quindi anche gli indulti, e quindi è stato possibile proprio adesso iniziare una serie di processi. E la cosa che sta avvenendo secondo me in Argentina, a differenza di altri paesi che hanno vissuto appunto le dittature militari, non ultimo anche la Spagna e l'Italia per quanto ci ha riguardato negli anni 30 40, poi la Spagna fino appunto agli anni 70, vi è un grande dibattito, i processi sono pubblici, c'è grande attenzione mediatica, cioè c'è una società che dibatte sulla dittatura, sono a conoscenza tutti finalmente degli orrori che sono stati fatti durante la dittatura, ed è quel dibattito che forse proprio in Italia e anche in Spagna per esempio non vi è stato, e che ha adesso inizia in Uruguay e in Cile, vabbè, tutti toccati dal plan Condor americano che appoggiava appunto tutte le dittature militari. Quindi l'elemento di novità in Argentina è che oggi sui diritti umani è il paese forse più avanzato, ha un ministero per i diritti umani, le attività istituzionali a sostegno dei diritti umani declinati anche al presente sono tantissime, e questo impegno è riconosciuto anche dall'ONU, quindi è un po' un simbolo l'Argentina potrebbe essere oggi appunto sul versante dei diritti umani. Arrivando al tuo lavoro, Carlo, come intendi realizzare il documentario? Allora, diciamo, finora abbiamo parlato un po' del quadro generale che mi ha portato anche ad affrontare questo tema, questi umani. Arrivando al tuo lavoro, Carlo, come intendi realizzare il documentario? Allora, diciamo, finora abbiamo parlato un po' del quadro generale che mi ha portato anche ad affrontare questo tema. Questo tema io ho deciso di affrontarlo però in una maniera mia, non con un semplice documentario che avrei potuto fare, ma ho deciso di calarmi nei panni di appunto un personaggio che piano piano inizia a scoprire, a prendere coscienza di quello che è successo, ed è un po', voglio anche quasi riproporre sullo schermo diciamo lo stupore che ho avuto io passeggiando per la periferia sud, diciamo la parte sud della sterminata Buenos Aires. A un certo punto, sotto un cavalcavia, trovo dei resti che sembravano archeologici, sembrava uno scavo archeologico, e poi mi avvicino e in realtà scopro che sono i resti di un centro clandestino di identificazione e tortura, ed è il Club Atletico. Quindi alcuni incontri fatti un po' per caso, questo tipo di narrazione la farà un interprete, mentre un'attrice, mentre tutti gli incontri saranno invece reali, con persone che sono state coinvolte appunto da quegli eventi, o anche persone appunto che oggi sono impegnate nell'attualità sul versante dei diritti umani, che appunto si sviluppa anche non solo nei confronti della dittatura, ma anche con un'attenzione verso una giustizia sociale, che almeno c'è questo grande tentativo che viene fatto oggi anche dalle istituzioni per i diritti umani. Carlo, in chiusura, diamo i riferimenti per chi volesse contribuire a questo progetto? Allora, noi abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma di Produzioni dal Basso, è appena iniziata e adesso stiamo studiando anche altri eventi a sostegno di questo progetto. Sulla pagina appunto di Produzioni dal Basso si può cercare Remedios, che è il titolo del documentario, e gioca sul nome proprio di persona femminile, sia sul suo significato di rimedi, e poi esiste una pagina Facebook, stiamo per pubblicare il sito internet, e da lì poi ci sono tutte le informazioni, alcune informazioni in più, compreso un video che ho realizzato appunto a Buenos Aires a dicembre, che è il promo di questo documentario. Allora, io ti abbraccio e a risentirci presto, Carlo. Ciao, grazie ancora per lo spazio. Buona presto. Giornata. Ciao. Regista Carlo De Domenico sul progetto di documentario Remedios. Visionari su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. E contribuiamo un'altra volta a un lavoro in costruzione, lo facciamo con il regista Carlo Tartivita sul progetto di documentario Sotterranea. Carlo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Bene, grazie. Ciao Federico, ciao ascoltatori. Allora, Sotterranea, di cosa si tratta? Allora, innanzitutto è un progetto collettivo, non soltanto mio, ma anche di Matteo Ninni e Chiara Campana. Sì. Siamo tutti e tre degli studenti, ex studenti della Scuola Civica di Milano, ed è un lavoro è un documentario web, cioè l'idea di utilizzare il web non soltanto come una piattaforma, utilizzare un YouTube o un Vimeo, piuttosto invece pubblicare una serie di contenuti. Quindi il documentario classico e poi altre forme come un audiodocumentario, delle foto e un testo. L'oggetto del documentario è appunto i sotterranei. I sotterranei di Milano. Sì. Come nasce tutto? Ok. Milano è una città un pochettino particolare, tutti quanti l'associano allo skyline, diciamo. Una città che si propone sempre in movimento e soprattutto guarda i piani alti. Mentre la nostra idea era quella di andare a vedere cosa succede sotto, quindi andare alla ricerca di personaggi e ambienti che non sono tanto conosciuti. E che realtà c'è sotto Milano? Allora, per adesso abbiamo scoperto una serie di ambienti, come possono essere i fuggenti aerei, la rete fognaria, la metropolitana, l'albergo diurno. Posso provare a raccontartene qualcuno? Come no? Anche soprattutto se sono poi abitati, insomma, che tipo di vita? Sì. Ma noi eravamo partiti con delle idee un pochettino diverse da quello che ci siamo imbattuti. Sì. Eravamo convinti di incontrare delle persone che ci lavoravano nei sotterranei. In realtà, confrontandoci con quello che abbiamo trovato di fatto è molto molto differente. Ad esempio, la metropolitana è un vero e proprio organismo controllato molto in remoto. Di fatto le persone che ci lavorano sono molto poco presenti. È stata inaugurata da pochissimo una nuova linea che è totalmente o quasi automatizzata, ad esempio. Oppure le reti fognarie, che anche quelle vengono gestite sostanzialmente in remoto. Quindi non è un posto molto abitato e vissuto con una presenza fisica, diciamo. Mm-hmm. Mentre esistono però una serie di racconti, di rimandi alla memoria, degli spazi che noi abbiamo un po' definito dell'oblio. E quindi è molto interessante anche capire, trovare dei sistemi per rievocarli, diciamo. Quindi ci per sono esempio i rifugianti aerei, che sono un pochettino degli spazi nascosti. È interessante questo aspetto dei racconti relativi alla città sotterranea, insomma, rispetto all'idea iniziale che vi ha portato a realizzare questo lavoro. Insomma, poi gli incontri con le persone chiaramente hanno cambiato un po' le cose. Certo. Mm. Ci siamo un pochettino adattati e sono sorti anche dei nuovi interrogativi. Un altro fatto molto curioso di Milano è che andando in giro restano ancora dei resti di segnaletica che indicano dei rifugi antiaerei. Sì. Nel passare degli anni sono stati progressivamente cancellati, tant'è vero che un'espressione che mi ha colpito molto è una persona con cui abbiamo parlato, che si occupa dei sotterranei e di questi spazi, è stata quella che: mi sono avvicinato a questo mondo, ai rifugi antiaerei in particolare, perché mi stavano cancellando la mia memoria. Sì. Perché vengono cancellate queste scritte, delle frecce segnaletiche con uscita o emergenza in giro per la città. Sì. Queste sigle. Mm-hmm. E quindi sono questi rifugi antiaerei che erano stati alcuni costruiti appositamente, altri invece erano delle vere e proprie cantine che sono state in realtà utilizzate come rifugi antiaerei, però poi di fatto erano piuttosto ridicoli come soluzione, diciamo. Senti, di quanti luoghi più o meno vi occuperete e vi siete occupati nel realizzare questo lavoro? Ma i luoghi per il momento sono tanti. C'è una lista davanti a me, siamo intorno alla, abbiamo superato abbondantemente la decina. Quindi abbiamo piuttosto articolato, insomma. Sì, abbiamo anche dei problemi a livello produttivo, ad esempio non è sempre facilissimo accedere a questi spazi, dobbiamo metterci d'accordo con chi le gestisce attualmente o con delle istituzioni, ad esempio ATM, che è l'azienda che gestisce i trasporti a Milano. Di fatto domani saremo alle 6:20 metropolitana a fare un giro con gli autisti. Senti, per chi volesse contribuire al progetto, ci dai dei riferimenti? Certo. Allora, per il momento abbiamo un sito, diciamo, provvisorio che è sulla piattaforma di Tumblr, e si può accedere con sotterranea.tumblr, scritto tumblr.com. Poi una pagina Facebook che è Sotterranea Doc, un account di Twitter che è sempre Sotterranea Doc, e poi su Vimeo come Sotterranea. Al momento abbiamo pubblicato due brevi estratti, due teaser che rendono un pochettino l'idea del lavoro che vorremmo fare, o almeno ci siamo sforzati di farlo. E poi c'è una pagina su, anche noi come il lavoro precedente, abbiamo una pagina su produzione dal basso, qui è possibile contribuire alla produzione del progetto. Sempre alla voce Sotterranea. Sì, di fatto ancora stiamo, come dicevo prima, girando, e poi vorremmo riuscire a garantire il pagamento di alcuni lavori che non riusciamo a gestire in modo diretto, ad esempio un mixaggio audio, e certo. L'idea anche di avere una voce off in grado di un po' di unificare tutti quanti i racconti che stanno intorno alla Sotterranea, quindi pagare un eventuale attore o comunque uno speaker. Bene. E anche la gestione del sito, quindi stiamo chiedendo 4.000 euro, per adesso siamo avvicinati al 20%, e quindi stiamo chiedendo un contributo per portarlo avanti, per sostenerlo. Bene, a questo punto poi fateci sapere gli sviluppi dell'operazione. Nel frattempo un abbraccio e a presto, Carlo. Grazie. Ci risento. Ciao ancora. Ciao. Regista Carlo Tartivita sul progetto di documentario Sotterranea. Parliamo adesso di festival, lo facciamo con Chiara Manni, presidente dell'associazione ACMA, per quanto riguarda la sesta edizione del Festival del Documentario d'Abruzzo, che si svolge a Pescara, iniziato a marzo, andrà avanti fino a giugno. Chiara, benvenuta a Visionari su Radio Nossa. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, noi lo avevamo attenzionato tempo fa questo festival, poi avevamo un po' perso le tracce. Raccontaci un po' di questa esperienza, Chiara. Sì, dunque questa è la sesta edizione, abbiamo iniziato nel 2007, poi 2 anni purtroppo siamo stati fermi per motivi diciamo economici, e abbiamo ripreso nel 2012, quindi lo scorso anno, e quest'anno la sesta edizione con una, diciamo, modalità un po' diversa. Facciamo le proiezioni dei vari concorsi, sono 4 i concorsi del festival, dall'inizio di marzo fino a metà giugno, quindi sono un po' distribuiti sia in città, Pescara, e anche in alcune città dell'Abruzzo oltre Pescara, e poi nell'arco di questi mesi, quindi ogni concorso ha un periodo in cui si svolge. Invece di fare le classiche 5 giornate dei festival, un po' 5, 6, 7 giornate dei festival tipici. Avete un po' spalmato nel tempo. Sì, esatto, abbiamo fatto questa, diciamo, abbiamo avuto quest'idea sia sempre per motivi, diciamo, economici, perché in questo modo si abbattono molto i costi, e poi anche perché, per esempio, adesso stiamo facendo Panorama Italiano, che sono i film documentari della passata stagione, tra i migliori film documentari, e vengono fatti 2 al mese, e gli autori in genere sono presenti, quindi si dedica tutto un pomeriggio alla proiezione del documentario e poi al dibattito con il pubblico e con l'autore presente in sala. Ecco, dicevi migliori della stagione scorsa, ecco, quali sono un po' i criteri di scelta rispetto ai titoli? Dunque, documentari, l'autore scrive il proprio documentario mandando appunto la scheda di iscrizione che abbiamo noi sul sito, quindi scaricato la scheda si invia, e ovviamente chi vuole, ne abbiamo ricevuti parecchi, un centinaio, per cui tra questi, diciamo, documentari Panorama Italiano purtroppo abbiamo dovuto fare una selezione rigida, ma questo è dovuto ai pochi spazi che abbiamo qui in città, e per fortuna abbiamo Feltrinelli che, con cui collaboriamo già da 3 anni, e quindi è un'alternativa veramente importante, perché Panorama Italiano si fa tutto alla Feltrinelli, presso la sala eventi della Feltrinelli di Pescara. Okay. E dicevo, purtroppo c'è questa selezione, la parola ultima spetta alla direzione artistica, che seleziona tra tutti i documentari di Panorama Italiano arrivati quelli che si ritiene siano, ma comunque sono documentari che hanno già girato, stanno girando attualmente in altri festival. Per esempio ne cito uno, A Politics Now di Schillaci, è stato il primo che ha aperto appunto la sezione Panorama Italiano a marzo, e attualmente so che ha vinto un premio a un festival, un doc festival web che si tiene appunto sul web, e quindi la premiazione credo sia in Francia, se non sbaglio a Parigi. Mm-hmm. Per cui sono documentari appunto che comunque della stagione passata, nel senso 2013 fino ad oggi, tutto quello che è un po' in giro di documentari italiani, perché ripeto, Panorama sì. Italiano sono tutti documentari di registi italiani. Senti Chiara, che tipo di risposta dà la città a questa iniziativa? Ma riguardo adesso Panorama Italiano e poi anche la sezione Abruzzo Doc, abbiamo oramai un pubblico legato abbastanza legato a Feltrinelli, nel senso che seguono un po' noi, e infatti poi li ritroviamo anche durante le giornate finali del festival e un po' tutti gli eventi che di solito si fanno culturali della città, che sono quelli appunto, dicevo, per la maggioranza legati a Feltrinelli, perché abbiamo sempre questo problema degli spazi che sono pochissimi sì, città. E poi si aggiunge a questo un pubblico abbastanza diversificato durante le giornate finali del festival, che si terranno a giugno, e anche lo scorso anno sono state a giugno, che sono di documentari internazionali, quindi italiani c'è qualcosa ma quasi nulla, perché li riserviamo a Panorama Italiano. E lì abbiamo ovviamente un pubblico un po' più numeroso, perché poi sarà in un auditorium, quindi si unisce il pubblico che seguiva Panorama Italiano a altro pubblico che viene anche un po' dalla regione, da fuori sì. regione anche. Sì, sì, sì. Chiara, ci dai riferimenti per saperne di più sulla programmazione? Sì, dunque abbiamo 2 siti, il sito dell'ACMA, che è l'associazione organizzatrice di, che io sto adesso rappresentando anche in trasmissione, è l'Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese, quindi www.webacma.it, e questo è il sito dell'associazione. Oltre a questo si aggiunge anche il sito del festival, quindi è il sito che dà solo notizie esclusivamente sul festival, www.abruzzodocfest.org, questo è il sito. E poi abbiamo 2 pagine Facebook del Festival del Documentario d'Abruzzo e Associazione ACMA, quindi si possono seguire gli eventi anche su Facebook, e ovviamente ci possono contattare anche tramite Facebook. E dico che la prossima proiezione sarà il venerdì 18 aprile, e c'è un documentario, si chiama Chi vuoi che sia, i registi sono Riccardo Cannella e Davide Vigore, che sono 2 giovanissimi registi su poco più di 20 anni, palermitani. Il documentario è molto interessante e ha vinto già alcuni premi, ha già girato diciamo anche in altri festival. Chiara, io ti ringrazio, a risentirci presto. Grazie moltissime a voi per averci ospitato, veramente molto molto vi ringraziamo. A risentirci, un abbraccio. Ok, ciao anche Chiara. A te, ciao. Chiara Manni, per quanto riguarda la 6ª edizione del Festival del Documentario d'Abruzzo, che si svolge a Pescara tra marzo e giugno di questo 2014. Ed è con noi il regista Filippo Vendemmiati, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa, Filippo. Buona giornata a voi e grazie di avermi invitato, eccoci qua. Allora, questa volta per parlare con te di un progetto di documentario, Meno male è lunedì. Filippo, cos'è? Meno male è lunedì, parla di una esperienza unica in Italia, un'officina metalmeccanica che si è costituita e aperto all'interno di un'ex palestra all'interno del carcere di Bologna. E in questa officina lavorano a stretto contatto 13 operai, 13 tutte blu, oggi in pensione, quindi volontari, insieme ad altrettanti detenuti regolarmente assunti da una società che ha promosso questa iniziativa. E il documentario racconta di questo incontro umano e professionale molto emozionante, molto, molto pieno, e cerchiamo di raccontare quello che succede durante una giornata di lavoro. È partito tutto quindi da questa azienda che ha lanciato questa idea? Sì, in particolare sono tre grosse aziende del packaging, sapete che a Bologna c'è il distretto del packaging, del confezionamento dei pacchetti, delle confezioni per medicinali e per vari usi, e hanno costituito una società che è appunto aperto all'interno dell'officina, e questa officina lavora su commissione di queste tre aziende bolognesi che appunto lavorano a stretto contatto operai e detenuti. Quanti detenuti coinvolge il progetto? Il progetto coinvolge in questo momento 13 detenuti, che però ruotano in continuazione, nel senso che poi quelli che escono lavorano tutti i detenuti che hanno pene superiori ai 5 anni. Quando escono c'è l'impegno da parte delle aziende di continuare di assumerli, perché all'interno dell'azienda del carcere questi detenuti sono regolarmente assunti con un contratto metalmeccanico, e quindi c'è l'impegno di assumerli una volta usciti dal carcere. Alcuni sono già usciti, altri stanno per essere avviati al lavoro con dei corsi appositi, con dei corsi professionali, quindi diciamo c'è un turnover continuo. E quello che rimane un po' fisso e stabile sono i 13 ex operai metalmeccanici che fanno un po' di tutto, fanno da insegnanti, fanno da soprattutto da colleghi di lavoro, perché quello che emerge con grande forza è che sia i detenuti che gli operai vivono questo luogo non come un luogo di costrizione, anche se all'interno del carcere, ma forse come l'unico spazio di libertà all'interno del carcere. Filippo, per quello che hai potuto vedere, i detenuti una volta usciti poi realmente hanno avuto possibilità di lavorare e sono soddisfatti di questa situazione? Al momento ci sono 3 detenuti usciti, perché l'esperienza è partita 1 anno e mezzo fa, sì. E quindi sono usciti i primi 3 detenuti che sono stati assunti in aziende collegate in provincia di Bologna, e da quello che mi risulta l'esperienza e la loro attività, il loro lavoro sta andando molto bene. Come hai deciso di seguire tutta questa vicenda, Filippo? Ma un po' diciamo perché mi interessava entrare all'interno del carcere e illuminare questa realtà poco conosciuta di cui si parla tanto, cercando di affrontarla anche con un'angolazione un po' diversa, ecco, e questa mi sembrava un'esperienza molto positiva che andava valorizzata, bisogna assolutamente raccontare. E quindi è un modo un po' diverso di parlare del carcere. È chiaro che la realtà del carcere emerge, ecco, non pensiamo che siano che la libertà, ecco, in realtà questi detenuti vivono questi momenti di lavoro quasi con allegria, ma poi gli operai da una parte alla sera tornano a casa, questi tornano al piano di sopra nelle loro celle, al sabato e domenica non lavorano, quindi non vedono l'ora di poter ritornare, e comunque c'è nello sfondo una realtà carceraria che che è durissima per l'ambiente, per le condizioni di vita, per l'alimentazione, e per cui diciamo per loro non è solo imparare un lavoro, ecco, che questo in prospettiva può essere certamente importante, ma anche in qualche modo evadere da una realtà che non va oltre l'individualismo, che non va oltre il colloquio con l'avvocato, il momento in cui il familiare ti viene a trovare, perché di questo si parla in carcere, non altro. E qui invece parlano e in qualche modo evadono anche mentalmente dalla realtà di tutti i giorni, insomma, quindi l'abbiamo un po' chiamato anche storie di viti e di vite, ecco, perché ovviamente poi ci sono sia i detenuti che gli operai che raccontano la loro storia, perché sono lì, che cosa rappresenta per loro il lavoro, ecco, c'è questo aspetto molto forte, diciamo, che emerge della trasmissione del sapere, ecco, quello che sì. Una volta si diceva il sapere operaio, ecco, non so se esiste ancora, però gli operai vivono con grande partecipazione e emozione il fatto di poter trasmettere a queste persone delle competenze, ecco, perché la cosa importante è che questa azienda lavora ad un livello qualitativo molto alto, cioè c'è una tecnologia molto avanzata, quindi non sono lavori ripetitivi, si lavora con il principio delle isole di montaggio, quindi ogni giorno si fanno cose diverse, tutti fanno cose diverse, quindi è un'esperienza anche da un punto di vista tecnico molto, molto formativa. E poi c'è l'incontro umano professionale e non solo professionale tra detenuti e operai, spesso l'operaio diventa quasi un confidente, ecco, non parlano solo di come si monta, come si usa un tornio, insomma. Ci sono anche dei momenti duri, perché in un'officina si litiga anche, oltre che ridere, e quindi mi interessava molto, diciamo che è iniziata con alcuni sopralluoghi, perché prima sapevamo di questa esperienza, volevamo capire esattamente come funzionava, quindi abbiamo iniziato una serie di incontri, ovviamente senza telecamere, ma semplicemente incontrando i detenuti e gli operai per capire se loro erano disponibili a sottoporsi ad una ripresa che sta andando avanti da parecchi giorni, insomma, no? E abbiamo trovato una grande disponibilità da parte loro, e soprattutto abbiamo trovato un ambiente che molto si prestava, ecco, a raccontare. Speriamo di riuscirci, ecco, perché la scommessa è quella di riuscire a raccontare bene questa esperienza così, così bella, tra virgolette. Sì. Quindi l'apprendimento di una competenza è come uno strumento di liberazione, in qualche modo, da quello che ci racconti. In qualche modo è proprio così, cioè un'isola di libertà, infatti, diciamo, provocatoriamente il titolo nasce anche da lì, insomma, no? Meno male che lunedì, perché per un carcerato che lavora il sabato e la domenica sono i giorni peggiori, sono i giorni della noia, del passeggio, del non sapere che cosa fare, no? E mentre il lunedì ci sono persone che vengono da fuori e che magari ti raccontano quello che hanno fatto e si evade dalla vita di tutti i giorni. Pensate che questi detenuti che hanno un regolare contratto, nel contratto hanno anche le ferie, e questo, perché questo prevede il contratto, certo. Quindi sembra quasi una beffa, ma è così, e quindi le ferie le usano per i colloqui con i familiari fino a quando non usciranno. Filippo, ci dai gli estremi per saperne di più e contribuire in qualche modo alla realizzazione di questo documentario? Ma guarda, il diciamo che il gruppo di lavoro parte in buona parte dalle persone che inizialmente hanno lavorato con me con il film dedicato a Federico Aldrovandi, È stato morto un ragazzo. Poi ci siamo un po' allargati, abbiamo fatto il film successivo su Pietro Ingrao, Non mi avete convinto. Dopodiché questo gruppo si è un po' allargato, si è costituito in società, e quindi al momento è un lavoro autoprodotto. Siamo ad una buona fase di realizzazione, se i tempi e anche le risorse ce lo consentiranno, sperando di riuscire a raccoglierne altre, e speriamo di essere pronti con il documentario subito dopo l'estate, quindi questi sono un po' i tempi di realizzazione. Diciamo che forse allargandoci un po', ecco, in un momento così difficile anche per il cinema autoprodotto, per il cinema indipendente italiano, anche questa esperienza, così come questa nel carcere, è una piccola isola di libertà in un sistema cinematografico che invece è molto chiuso, è molto incombente, insomma, e non permette spesso ai prodotti di essere soprattutto distribuiti, ecco. Filippo, avremo modo di riparlarne di questo lavoro. Speriamo. E io ti abbraccio e a presto. E grazie a voi. E ci speriamo la prossima volta di ascoltarci per commentare il film. Ecco, non solo il un lavoro progetto ultimato. Che comunque sta andando avanti abbastanza velocemente. Bene. Ciao Filippo. Grazie a tutti voi, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Filippo Vendemmiati sul progetto di Doc Meno Male è lunedì. Francesca Antonini del 18° Umbria Film Festival a Montone, provincia di Perugia, dal 9 al 13 luglio. Ben ritrovata Francesca. Buongiorno, ben trovata a te. Allora, un progetto di molto interessante di festival che va in crowdfunding. Sì, noi abbiamo deciso quest'anno di attivare una campagna di raccolta fondi tramite crowdfunding, perché come ben saprai c'è una crisi generale di fondi sia pubblici che privati, e siccome la nostra è una manifestazione di qualità indipendente, abbiamo deciso di supplire per mantenere viva questa manifestazione con questa iniziativa. Allora, 18 edizioni, purtroppo le ristrettezze economiche sono quelle che sono. Come avete deciso di portare avanti questa campagna su produzioni dal basso, Francesca? Allora, noi abbiamo deciso innanzitutto promuovendo quella che è la nostra attività, e quindi ci siamo iscritti su produzioni dal basso, abbiamo presentato quello che è il nostro progetto, anche perché il nostro è un festival che è molto radicato in Umbria, appunto, nel territorio, ma che ha un respiro internazionale. Ci sono anche appunto ospiti o persone, pubblico che programma la sua visita a Montone o in Umbria anche in base alle date del nostro festival, questi italiani o anche molti stranieri. Sì. Per cui abbiamo cercato di sottolineare questo, anche sottolineando soprattutto la nostra attività, perché noi siamo nati nel 97 da un'iniziativa dell'associazione Umbria Film Festival in collaborazione col comune di Montone, con i Riverside Studios, e il nostro intento è stato sempre quello di creare un momento di incontro di tutte le persone che erano locali, straniere, che quindi abitano l'Alta Valle del Tevere, intorno al cinema. E in questi anni abbiamo offerto gratuitamente, perché tutte le nostre proiezioni, i nostri eventi collaterali sono gratuiti, abbiamo offerto tantissimo, 100 anteprime, 500 corti di animazione, sono venuti oltre 50 protagonisti del cinema a livello internazionale, tipo l'anno scorso, per esempio, per l'edizione scorsa abbiamo dato le chiavi della città di Montone, perché noi non siamo un festival concorso, però normalmente omaggiamo un personaggio di rilievo del cinema con questa onorificenza, e l'edizione scorsa è stata data al regista Steven Frears, premio Oscar, e al regista danese Bille August, che ha vinto due volte la Palma d'Oro a Cannes. Sì. Steven Frears, tra l'altro, è venuto a chiacchierare del suo film uscente, che stava per uscire a Venezia, Filomena, con Terry Gilliam, che tra l'altro è il presidente onorario del nostro festival, per cui tu puoi capire che è un evento molto speciale e magico, che avviene lì in piazza, nella piazza di Montone, accessibile a tutti, che fa un cinema di altissima qualità e che quindi per questo vuole continuare ad andare avanti. Francesca, cosa prevede l'edizione di quest'anno, se ci puoi dare anticipazioni? Purtroppo non ci sono molte anticipazioni da dare. È ancora tutto in costruzione, chiaramente. Sì, ancora tutto in costruzione. Poi noi siamo un po' come il bellissimo festival di Telluride, che normalmente fino all'ultimo non riveliamo molto il nostro programma. Però ecco, come iniziative il nostro festival si compone prevalentemente di un concorso a competizione, che è l'unico che abbiamo, per corti per bambini. Sì. In cui la giuria è formata proprio dai bambini delle scuole dell'Alta Valle del Tevere, Poi a seguire ogni sera, dopo le proiezioni di questi corti, c'è un lungometraggio che prevalentemente si tratta sempre di anteprime e di cinema europeo. Noi speriamo appunto di avere comunque sempre un programma ricco, bello e pieno di ospiti, e che quindi le persone fiduciose di quello che hanno vissuto e visto negli anni passati comunque contribuiranno per continuare anche con questa e forse più edizioni. Ci dà gli estremi per contribuire? Allora, dovete andare su Produzioni dal Basso, il sito di Produzioni dal Basso, e che è www.produzionidalbasso.com, e il nostro indirizzo è proprio produzionidalbasso.com/tb_3498. Se no potete visitare il nostro sito www.umbriafilmfestival.com oppure la nostra fanpage, dove noi postiamo tutte le news relative a questa attività e anche relative a tutte le novità che avvengono per gli ospiti o che sono venute al nostro festival. Bene, allora ci sentiremo per le prossime novità. Grazie mille Federico. Ciao Francesca. Ciao, buongiorno. Francesca Antonini del 18° Umbria Film Festival a Montone, provincia di Perugia, dal 9 al 13 luglio in crowdfunding su Produzioni dal Basso. Parliamo adesso di film in uscita in sala con Paolo Penza di Fox Searchlight Pictures sulla distribuzione del film The Grand Budapest Hotel in uscita in sala oggi, giovedì 10 aprile. Paolo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, bentrovati, buongiorno a tutti. Ci tenevo molto perché me lo sono goduto l'altro giorno alla proiezione stampa, credo che sia uno dei film della stagione, ho messo anche nella pagina della scaletta di quest'oggi la foto di Wes Anderson con le mani che fanno un'inquadratura, e insomma è un gran bel film, Paolo, e raccontalo un po' per chi ci ascolta, per sommi capi, di cosa si tratta. Grazie, beh, innanzitutto però devo dire che mi fa molto piacere che tu dica questo, devi specificare che non ci siamo messi d'accordo prima. Allora, dunque, Grand Budapest Hotel è la storia di un leggendario portiere d'albergo, o meglio concierge come si chiamano, lavora in questo altrettanto leggendario hotel di un paese immaginario che si chiama Dubrovka, e dirige le sorti di questo hotel con un polso di ferro in un guanto di velluto. È la storia dei personaggi che tornano attorno a questo concierge e soprattutto della sua amicizia e collaborazione con un giovane assistente che lui chiama Garzoncello, che nel corso del film si trasformerà dapprima in un suo dipendente, poi in un suo complice e poi in un suo amico. E nel film c'è anche una vicenda gialla di un omicidio di cui il concierge viene incolpato e la ricerca di un preziosissimo quadro che questo concierge è accusato di aver trafugato. Questo è tutto quello che posso dire, certo, per non rovinare la sorpresa del film. Senti, diciamo che la trama è assolutamente un pretesto, certo. Il film è una galleria di ritratti molto divertenti e molto ironici, ambientata in un paese immaginario dell'Europa dei fine anni 30, che rappresenta in pieno, insomma, la visione, vogliamo chiamarla poetica, del regista. Ed è un film tutto da godere, insomma, rispetto ai suoi ultimi film è un film molto ironico, molto scanzonato e molto divertente. Devo dire che Wes Anderson non mi ha mai deluso in questo film, credo che sia poi uno degli apici della sua filmografia, almeno una dozzina di grosse star hollywoodiane che hanno partecipato al film, un universo fantasmagorico unico un po' nel mondo cinematografico a livello globale, un grosso senso dell'umorismo, una estrema cura nell'attenzione ai dettagli e all'uso e un uso dei colori è veramente sgargiante. Assolutamente sì, devo dire che la cura di Anderson nel realizzare i suoi film è più che cura, io la definirei maniacalità, ritengo sia completamente pazzo, ma questa è un'opinione personale. Vi dico soltanto che Wes Anderson ha curato personalmente la supervisione del doppiaggio italiano, senso che noi abbiamo fatto il doppiaggio e gli abbiamo sottoposto ogni volta che c'era un termine che dovevamo scegliere la decisione a lui. Quindi è un regista che arriva a curare anche dettagli che la maggior parte dei registi ignora, insomma. Senti, come avete incontrato sul vostro percorso Wes Anderson e come avete deciso poi di distribuirlo in Italia? Allora, devo specificare una cosa. La Fox Searchlight è una branch americana all'interno della 20th Century Fox, okay. Cioè è la piccola casa all'interno della grande major 20th Century Fox che si occupa della distribuzione dei prodotti di nicchia. Per cui il lavoro della Searchlight è di distribuire film cosiddetti d'essai, come li chiamiamo in Italia, che invece non sono interessanti per la grande major, che invece deve puntare a prodotti più mainstream, cioè più rivolti al grande pubblico. E Wes Anderson aveva già lavorato con la Searchlight perché anni fa avevamo distribuito il treno per il Darjeeling. Quindi esisteva già un rapporto. Okay. Siccome molti autori e sceneggiatori e registi amano lavorare con la Searchlight perché è una società che lascia molta libertà agli autori, ha proposto questo progetto che la Searchlight è stata felicissima di cogliere, insomma. Quindi la decisione di distribuirlo è una decisione nata a Los Angeles, nata negli Stati Uniti, e la Searchlight ha acquisito i diritti di distribuzione per tutto il mondo, quindi anche in Italia. Paolo, per chi ci ascolta, raccontiamo un po' qual è l'avventura cinematografica di Wes Anderson nel corso del tempo. Qui in Italia è diventato noto soprattutto grazie ai Tenenbaum, ma sì. La sua è tutta una galleria di film diversificati e sempre di alto livello. Sì, Wes Anderson credo che con questo sia arrivato al suo 8° film. È diventato famoso, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, con i Tenenbaum, ma aveva già diretto delle cose prima. Il suo primo film si chiama Rushmore. E da noi fino adesso nessun film ha eguagliato l'incasso e il successo avuto da Tenenbaum. Negli anni passati abbiamo visto distribuito da noi il treno per il Darjeeling, sì. Ma lo scorso anno è andato molto bene anche un bellissimo film che si intitolava Moonrise Kingdom, sì. Su questa coppia di ragazzi che fugge da un campeggio perché innamorati. Wes Anderson ha fatto anche un film d'animazione molto particolare che si chiama Il Fantastic Mr. Fox, sì. E nell'originale aveva le voci di Meryl Streep e George Clooney, sì, sì, sì. Diciamo che è un regista molto eclettico da un lato, capace di affrontare temi molto diversi, ma che ha un modo di girare e una personalità assolutamente unici e che il pubblico ha imparato a riconoscere. Adesso per noi a riconoscere e ad amare. Per noi ora l'obiettivo è cercare di eguagliare, se possibile, o superare il successo di Tenenbaum, che finora è il confronto con cui tutti i suoi film devono avere a che fare. Sì, sì. Un film di Anderson oggi funziona se si può paragonare a Tenenbaum, che fino adesso è considerato il suo capolavoro. Sì. Vediamo se con Gran Budapest ci riusciamo. Beh, questo a tutti i numeri, dicevo, dal grande numero di star che secondo me corrono quando c'è da fare un film con lui, e poi insomma. È vero. Sicuramente una grande macchina è quella che è stata messa in moto per la realizzazione di questo lavoro, e quindi sì, secondo me ci sono tutte le prospettive per un grosso gradimento di pubblico. Paolo, io ti ringrazio, ci sentiamo presto per le prossime novità. Prego, e speriamo di sentirci presto con un altro film così bello. Ok, ti abbraccio, ciao Paolo. A voi, arrivederci a tutti, grazie. Paolo Pensa di Fox Searchlight Pictures per la distribuzione del film The Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, in uscita oggi giovedì 10 aprile. Parliamo di un altro film in uscita oggi giovedì 10 aprile, un film italiano questa volta, Alessandro Rossetto, regista del film Piccola Patria. Alessandro, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno. Allora, Piccola Patria, per chi ci ascolta, di cosa si parla? si parla d'amore. Ma no, davvero si parla d'amore? Eh sì, eh sì, eh sì. No, si parla d'amore, di un ricatto a sfondo sessuale, di una crescita, il passaggio dall'età giovanile a quella adulta delle due protagoniste. Però è un film girato nel nord-est italiano, quindi che coglie anche, diciamo, i dolori della terra che poi in questi giorni sono alle cronache. Eh sì, viene fuori un ritratto del Veneto, niente male, insomma, tra convention secessioniste, xenofobia e ricatti sessuali, appunto, con protagoniste anche ragazze, e poi tante insomma, piccole bestialità quotidiane. Che ritratto hai deciso di fare di questa terra, Alessandro? Ma diciamo che io ho narrato un nord-est ideale, peraltro la lingua del film è il dialetto veneto, che accomuna le tre grandi regioni, sì, del nord-est. Ma io ho lavorato su un mondo popolare, nel senso che i personaggi, le location, il lavoro anche sulla lingua, appunto, è stato fatto per determinare, diciamo, molto bene la classe d'appartenenza dei protagonisti del film. E senza voler giudicare, però, ho voluto entrare nella carne, diciamo, di quella che potremmo chiamare la condizione nordestina, che è stata, insomma, che è una condizione abbastanza deflagrante per le relazioni, perché il mondo adulto, diciamo, fatica ad adeguarsi ai cambiamenti che la società nel nord-est ha avuto, soprattutto negli ultimi 15 anni. Mm-hmm. Quindi è un ritratto a tinte varie, però è un film molto d'azione, con una dinamica positiva che riguarda i giovani, perché in questo delirio che il film racconta, comunque i giovani partono un po' dall'orizzonte dei valori dei genitori, ma poi arrivano ad altro, per fortuna. Sì, sì. Alessandro, com'è partita l'idea di questo lavoro? Ma noi abbiamo lavorato con Caterina Serra al soggetto, poi si è unito Maurizio Braucci per la sceneggiatura. Abbiamo lavorato riflettendo all'inizio su un tema che era la mercificazione del corpo dei giovani e del loro futuro. Da una parte questo ci ha guidato in termini macro, diciamo, sì. E poi abbiamo raccolto tutta una serie di storie, piccole storie, appunto, d'amore, crisi, lavoro, ricatto nell'area nordestina. Le abbiamo romanzate, le abbiamo inserite in questo che poi è un quadro di tragedia greca, sì, e classica. Sì, sì. Aggiungo questo, per me c'era anche un'istanza formale, insomma, di linguaggio cinematografico, e sono riuscito, possiamo dire, a fondere realtà e finzione nel film, quindi a mettere a frutto la mia esperienza documentaria. Ecco, proprio a questo proposito, si tratta del, se non sbaglio, del tuo lavoro di debutto nella finzione, nel film di finzione, e raccontaci anche un po' del tuo percorso precedente, Alessandro. Ma io ho fatto film documentari cosiddetti di creazione, cioè, per spiegare, documentari a soggetto, totalmente a soggetto, molto liberi, un rappresentante di questo, diciamo, genere a tutti conosciuto è Sacro Gra. Sì, sì, sì. Ho voluto però scommettere portando gli strumenti del documentario nella finzione, cioè utilizzando tempi, modi, atteggiamenti nell'affrontare il racconto di finzione, appunto, di tipo documentaristico. Come dicevo, questa è un po' la scommessa anche formale del film. Per questo il racconto di Piccola Patria è molto innervato della società, che poi è anche la società della provincia universale, non solo nordestina. Ecco, a proposito della provincia e del nord-est, Alessandro, per tuo modo di vedere, quali sono le origini di questo malessere? Per chi conosce la situazione non è sorprendente che ciclicamente secessionismi, indipendentismi, separatismi in Veneto in particolare emergano. Bisogna pensare che il Veneto è a ridosso di due regioni autonome, il Friuli e Venezia Giulia e poi le province di Trento e Bolzano, quindi diciamo vorrebbe in qualche modo unirsi. Che dire, la crisi ha morso molto le famiglie, perché la struttura del lavoro, delle unità manufatturiere e piccole industriali in Veneto è di natura familiare, e quando la crisi colpisce, in questo caso colpisce anche le relazioni. Quindi ho lavorato anche programmaticamente su questo, in qualche modo. Senti, che tipo di riscontri, visto che il film è stato presentato qualche mese fa, presentandolo in pubblico, insomma, che tipo di riscontri hai avuto? Ma che devo dire, molto positivi. Il film sta raccogliendo critiche, insomma recensioni molto egregie, se ne sottolinea la verità. E questo fa molto piacere a me, agli attori, a chi ha fatto il film, perché volevamo fare un film che non scontasse nulla, ecco, che non facesse sconti. E poi è stato ben accolto anche all'estero, ad una serie di festival internazionali, dove abbiamo capito che al di là dei temi che a noi italiani possono risultare primari, appunto territoriali, ecco, al di là di questo si è capito che l'opera, il racconto, il fatto che sia un film incalzante, molto libero, che scommette, riuscendoci diciamo su una forma innovativa, è una cosa che appunto chi non conosce, anche chi non conosce bene la realtà italiana e quella nordestina, ha apprezzato. Alessandro, chiudiamo con il senso di questo titolo che hai voluto dare. La piccola patria per me è la piccola patria dell'anima, poi il titolo mi è venuto quando l'ho trovato, e quando vedrete il film capirete, questo piccolo borgo un po' assurdo, postmoderno direi, che contiene quasi buona parte del film, quasi tutto. E quindi, trovato questo posto, ho pensato sì, questa è proprio una piccola patria, e volendo raccontare anche le difficoltà territoriali, ho pensato che piccola patria fosse un buon modo per nominare sia l'area del film, ma anche insomma la piccola patria dell'anima dei personaggi del film. Alessandro, è stato un piacere, spero di risentirti presto. A presto, da questa sera in 20 città italiane. 20 città italiane, benissimo. Piccola patria da oggi nelle sale. Alessandro, a risentirci presto. Grazie mille, arrivederci. Alessandro Rossetto, regista del film Piccola Patria, che chissà, magari presto troveremo anche a Roma, forse anche al Teatro Valle Occupato. Ve la butto lì così, guarda. Anche perché è il momento del Teatro Valle Occupato. Visionari torna giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Le informazioni le trovate sia sul sito internet della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sia sulla pagina Facebook di Visionari, mentre l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.